le performance al mix di Gigi De Agostino. Siamo in piena serata, in pieno Sunday Bloody Sunday. Stanno girando i dischi di Gigi De Agostino a livello Progressive Sound Movement. La domenica afternoon by Kamasutra. We'll be right back. ascoltiamo sutra. Lo sapete chi c'è con noi in Supreme Console? C'è Gigi D'Agostino! mazuca, mazuca. Fatti sentire! Yeah. Gigi Di Agostino con noi in the Sunday Bloody Sunday. Le mani si alzano al cielo! Belli e ribelli con Gigi Di Agostino! Altro viaggio, ancora insieme, firmato Gigi De Agostino. Un altro volo. E sale! Alla mia destra, qui alla console, c'è Jeanette. Alla sinistra c'è Neck. Paola è la grande gabbia. Di fronte a me sulla terrazza, Alex e Barbara. Oliver sul banco del bar. E Gigi De Agostino in console. Thank you. AJ in console. Ciao Frankie Roberts by Radio Fantasy, thank you, ciao. La luce del bar se n'è andata, si può bere gratis. Non è vero, non ci provate. Silvia AJ in console. Questo ragazzi è uno degli ultimi di Gigi D'Agostino, si intitola New Year Day.